Sono passati 134 anni da che il fonografo pop privò il mondo dell'estemporaneità delle esecuzioni live ribelle sotto forma di concerto. E la barbarie commerciale capitalista borghese pop si arrogò l'infame diritto di violare la sacralità dell'esperienza sociale empatica dell'ascolto della musica, tutta resa schiava dalle catene dei solchi nel vinile. Anche allora la musica, da sempre nell'arena della lotta, fu aggredita con irrisione, menzogne, odio e persecuzione dalle insulse melodie, ritmi e versi delle classi possidenti pop, che giustamente sentivano in essa il proprio nemico mortale. Nel corso di questi 134 anni, il pop si imponeva violentemente nella cultura popolare, riducendo alla becera merce di mero consumo. Il popolo subì quasi ignaro, inerme e incosciente la dittatura commerciale pop, che ogni forma sonora asserviva ai suoi infimi scopi tirannici. La canaglia pop partoriva la sua mostruosa prole fatta di hit parade, disco dancing, bimbo mix e top ten che anno dopo anno monopolizzavano ogni nota, ogni suono, ovunque nel mondo ormai coperto di fumanti macerie sociali e culturali. Dietro di lei giacevano i suoi produttori, discografici, autori e per giunta critici musicali e altri ruffiani musici della borghesia pop. Oggigiorno questo impoverimento non più solamente di genere social musicale, ma anche fisiologico e biologico, ci si pone di fronte in tutta la sua spaventosa realtà. Opprimono e coartano ancora le nuove generazioni piccole e deboli che sono in ritardo nel proprio sviluppo storico, dal truzzo all'emo che non sono ancora capaci di vedere al di là di Lady Gaga, al piccolo gruppo punk che viene rovinato dai capitalisti pop che operano su vasta scala e che adulterano la musica underground, al piccolo rapper americano derubato e truffato da MTV e dai membri del congresso. Tuttavia, la contraddizione pop con cui ci hanno marchiato fin dalla nascita rappresenta in atto la possibilità del cambiamento. Diventa così strumento di coscienza delle miserie sociali e musicali e quindi di lotta per la liberazione dell'individuo dalla barbarie popcorn. La coscienza si sta risvegliando nell'intero pianeta e i ribellissimi in ogni dove esorcizzano ormai da tempo la tirannide culturale sonora con sarcastici baccanali, dionisiaci party e ironici festini, ritrovando quell'energia collettiva rituale che è il trash. Il trash non si ascolta nella propria dimora in solitudine e riflessione. Il trash è esperienza collettiva e collettivizzante che va vissuta in compagnia o sei un ladro o una spia pop. Molto bene, abbiamo voluto esordire con un estratto dal manifesto dell'Internazionale Trash Ribelle, perché questa sera Smetto Quando Voglio ospiterà il Gotha di ITR. Benvenuti, questa è Radio Città Fujiko. Chi di dovere? Si esprima? Oh, ci sono? Molto ci bene, sente? Molto bene. Si sente, si sente. Ci siamo. Molto bene, li avrete sicuramente riconosciuti. Assolutamente no. Il parente è Sor Bracciola. Stiamo aspettando il presidente. Niente meno. Che a quest'ora sarà. Abbiamo, in questo momento abbiamo il profeta, l'integerrimo. Aspettiamo il presidente. Aspettiamo il presidente. Insomma, questa sera si parla di malvagismo, ragazzi. Il malvagismo potremmo dire che è una sorta di stile di vita. Nella sua tristezza è anche, che so, una sorta di filosofia, una missione. E noi siamo qua. Hey! Sì, siamo in diretta, cari amici. Another one bust the dust. Another one bust the dust. Ow! Another one bust the dust. Gianni. Lo sapete, è sempre presente, sempre lo sentirete. Siamo. Speciale malvagismo, dicevamo oggi, questa cosa qui, speciale malvagismo, perché questo concetto rimane un po' astratto, ma neanche troppo, perché No. Hai capito. In realtà il malvagismo è un ente, una cosa che sta nell'ente, un'entità astratta. Che si materializzerà, diciamolo. Assolutamente. Si materializzerà in questa città l'8 novembre. Di colore sarà. Ma no, color luta. Però dice che non porteranno le bandiere, stendardi. No, non so se avete visto il loro manifesto. Sono proprio malvagisti. Hanno litigato subito col creativo e col grafico. Ma sì, chissà, non lo so. Ma io non lo so. No, sono molto standard, sembrano quelle cose un po'. Tipo, non lo so, tipo, ma se sai quando vai a fare i massaggi delle palestre? Sembrano tipo volantini quelli da palestra. Esatto. Ti aspetti di trovare sotto il 30% se fai 6 mesi. Esatto. Sì. Hai la sauna gratis una volta al mese, queste cose qua. Però se li vieni. Però vieni a faticare da noi. Questi vengono pagando. Tutti quanti qua, gli promettono, c'è pure un sacco di gente che viene, gli danno tipo, dicevo, ti portiamo in gita a Bologna, colazione al sacco, caricano un sacco di gente, le portano là tutti quanti insieme. Che magari dicono, ti faccio venire a vedere un concerto di Gigi D'Alessio a Bologna, 10 euro. Ma suonerà qualcuno? Gigi D'Alessio? No. Dici? Non ci sarà Gigi D'Alessio. Il cognato di Messner? No, il Des Frost, Davide Van Des Frost. Quello là. Che peccato. Che poi, fra l'altro, non sono neanche male. Sono stati proprio travolti dal male. Davide Van Des Frost. Certo che è male. Ma no. Sì. Ok, ma è quello male. Che canta. Okay. Malvagista. Balli con gli alpini. Malvagistissimo. Vabbè, comunque, ragazzi, il succo è. Che cosa vuol dire malvagista? Diamo una definizione di malvagista. Che non è malvagio, eh? È complicato un po' trovare una definizione che potrebbe finire su un dizionario, però. Dice di sì, di persone i cui intenti sono malvagi. Esatto. È un aggettivo che non ha genere, perché non malvagista maschile. No? È un aggettivo malvagista. No, è un aggettivo. Ah, malvagista è colui malvagista che pratica il malvagio. Che pratica il malvagismo. Il malvagismo. Perché qua non stiamo parlando né di malvagità né di malvagi. Stiamo parlando di malvagismo. Malvagista. E il contrario di malvagismo, bada bene, non è. Il buonismo. No. Il contrario di malvagismo è non malvagismo. Io come era Fini col fascismo? Fascista. Io sono un non malvagista. Non malvagista o amalvagista. Ma in Fini, realtà. Scusate, una parentesi. Oddio. Ma Fini. Se lo porterà il pezzo. Un'altra parentesi. Ma buon anno, se lo porterà il pezzo. Ma ci sarà una qualche volontà di questi malvagisti di mettere in atto direttamente sul campo i loro propositi, e cioè menare le zecche rosse, sputare in faccia agli immigrati, strappare le lapidi dei partigiani in Piazza Maggiore. Secondo voi? Hanno detto di no loro, eh? No, sono malvagisti. No, penso, è una cosa più da TV, sorrisi e canzoni. Ce la immaginano così. Ma perché a Bologna? È vero, perché Bologna ha preso più voti nell'ultima elezione della Lega di tutta Italia. Perché non volevano a Fini, che Fini doveva andare, voleva. Facciamola a Firenze. E lui ha detto, no, se andiamo a Bologna. Siamo a Firenze, sta solo Fini. Ma è vero che a Bologna sta gentaccia, comunque in effetti ha preso un po' più, anche perché comunque la propaganda malvagista a Bologna ha visto dei grandi apici di, cioè ci sta tipo politicanti che hanno fatto carriera su venire schiaffeggiati da gente. Gente che fino a qualche anno prima era con noi alle feste a livello 57, era nella stessa stanza dove eravamo noi, e finiva alle 11, alle 2 del pomeriggio esattamente come noi, e usciva con la nostra stessa faccia. Ma cado prima di tutto, perché sicuramente con la tua. Ma la smetta. Comunque, cioè che il malvagismo è arrivato a dei livelli proprio professionisti. Sui malvagisti professionisti lascio la parola a parente. Ci sono i malvagisti istituzionalizzati. Questa è una cosa ovvia. Col patentino. Cioè, che allevano anche malvagisti non istituzionalizzati, non in erba. Esatto, in erba. Esatto, anche i malvagisti in erba, che li portano comunque nel loro. Li infettano con il malvagismo che propagano. Esatto. E questo fatto qua è una roba, comunque, cioè, è una roba storica. Cioè, i malvagisti esistono da sempre. Cioè, assolutamente, la propaganda malvagista è una cosa che è nata, ma è anche vero che l'umanità negli ultimi 200 anni aveva fatto, beh, non male, dei passi da gigante contro il malvagismo quello becero. Sì, se la raccontava che aveva fatto dei progressi, se la raccontava e se la racconta. No, vabbè, insomma, qualche progressino c'è stato, di fronte alla becera violenza della... Forse è arrivato il presidente. Probabilmente è arrivato il presidente. Un po' vorremmo, per cortesia, quando arriva il presidente, se ci mettete l'inno. Grazie. Allora, questo era Aspettando speciale malvagismo. Adesso che è arrivato il presidente, mettiamo un pezzo e ripartiamo con lo speciale TRS. Malvagismo. Il tutto. E salutiamo Gianni Morandi. E gli chiediamo se potesse venire. Ritorneremo dopo sulla figura di Gianni Morandi. Che è importante, perché lui è quello che ci può salvare dal malvagismo. Ha delle dritte buone. Continuate a seguire questa trasmissione, perché ne sentiremo delle amalvagiste. Mentre gli ospiti stanno mettendosi al loro agio, noi andiamo avanti con una selection di classe, di pregio, ma assolutamente trash. Questa è Radio Città Fujiko. Stiamo rasentando la mezzanotte meno 10. E questa è Smetto Quando Voglio. Sorto mai controlli. da 19 anni sulle frequenze di Radio Città. Prima 103 e poi Fujiko. Ed eccoci, finalmente abbiamo o presidente. Buonasera a tutti, buonasera a tutti belli e brutti, come qualcuno disse. Bella sta cosa da balera, eh. Non è male, eh. Per te questo ed altro, presidente. Lo so. Niente, questo venerdì sera, belli freschi, aspettando l'8 novembre. Cioè, siamo tutti così in attesa. Sì. La gente ci chiede. Non lo so. Tutti vogliono sapere dove andate, cosa fate. Cioè, infatti sì. Com'è? Non lo sappiamo neanche noi, questa è la cioè, verità. Ma è quello. È la gente ci chiede. È il nostro punto di forza. È tutta una serie di teste che ragionano e poi 5 minuti prima si coagulano in un super. In un super trasciarolo che prende, va e fa. Il nostro punto di forza è far finta di non sapere. È quella. Non sapendo di far finta. Di non sapendo di far finta. Rischieremmo pure delle teste quasi che impazziranno. È la fantastica inconsapevolezza dell'essere, no? Anche dell'avere. Comunque siamo qui questa sera, quattro teste poco pensanti e una assolutamente pensante, mi riferisco a Gianni, che adesso ci farà alcune domande perterrite. Ma noi non eravamo gli scemi. Noi siamo i scemi. I scemi. Arrendetevi, noi siamo i scemi. Questo è uno dei cartelli più belli. Adesso andiamo un attimo a parlare meglio della del soggetto di questa speciale di Smetto Quando Voglio, che è il malvagismo. Esatto. Il malvagismo. Gianni, che è un grande conoscitore dei malvagisti, ci farà delle domande che sono le domande tipiche di quelli che si chiedono: ma cosa sarà mai questo malvagismo? Ma cosa intendete? Prego Gianni con la prima domanda. La prima domanda è molto semplice. Federico, abbasserei un come po' la musica. Come fare a calmare il vagito di un bambino, il gugiulare di due cuccioli, un marito che non vuol venire per farla arrivare a una nostra manifestazione? Ecco. Megoglioni. La risposta apparente. Secondo me, se gli metti la rettore va bene tutto. Beh, voi dovreste conoscerlo, Gianni. Una colonna di Smetto Quando Voglio, le sue parole sono dolci, carezzevoli, melodiche e escono in maniera assolutamente casuale. Ed passiamo, è meraviglioso. Passerei alla prossima domanda di Gianni. Esatto. Gianni? Visto che il mondo delle piante ne ha tante, fra le quali c'è la malva, allora dal pioppo deriverà il pioppismo, dall'abete l'abetismo, dalla malva il malvagismo. La malvagità, la malvagità è un'altra cosa. Infatti noi non stiamo parlando di malvagità, vogliamo dare un prodotto buono a tanta gente in un posto dove nessuno si fa male, cioè dove ci può essere magari qualche pianta di malva che non è male, una pianta bianca come diventano gli uomini quando sono vecchi. Ma mentre sono giovani sono sanguigni, bravi, belli. Rispondo subito alla domanda. Prego. La corrente malvagista nasce all'alba dei tempi. Cioè, da sempre. Da sempre. C'è sempre qualcuno che ha cercato di abbindolare qualcun altro con concetti comunque di prepotenza, di arrivare ad un fine ultimo tramite sotterfugio, tramite aiutatemi cazzo. sotterfughi dagli uomini primitivi. Mantenere nell'ignoranza il popolo in modo da poterlo sfruttare e raggirare. Ma farlo in maniera assolutamente consapevole e quindi malvagia. Detta anche paraculata. No, i paraculisti sono un'altra cosa. Perché si nascono. Lo fanno proprio apposta. Lo fanno proprio apposta. Loro sanno quello che stanno facendo. È di mestiere. Esatto. Federico, tu per esempio, faccio un esempio. Un esempio di? Di malvagismo. Ah, per esempio. Un esempio di malvagismo è successo qualche giorno fa a Bologna. Sapete che c'è stato quel tristissimo sgombero all'Extercon, giusto? Certo. C'è stato lo sgombero, alcuni, la Bologna civile si è, la Bologna non malvagista si è indignata, è scesa in piazza, mentre invece la Bologna malvagista ha fatto un esposto contro i servizi sociali, colpevoli a loro dire di aver avvisato le persone che dormivano là dentro che sarebbero state sgomberate. È successo. Ma Buonanno se lo porterà il pezzo. Oh, il ferro. Chissà se ci arriva Buonanno a Bologna. Per me è troppo a sud. No, arriva. Figurati se la perde. Cioè, un altro esempio di malvagismo? Te l'ho chiesto? Lo fa il parente questa volta. Vai, parente. Il presidente farà un esempio di malvagismo. Un malvagismo. Tutta sta gente che ci viene dietro e ci butta schifo, diciamo che noi siamo l'opposto di loro, quando noi forse siamo le persone un attimo che sanno quello che vogliono. Il malvagista ha paura. Uno. Che cazzo di esempi di fai? Sei ubriaco. Il malvagista ha paura. Presidente, voleva dire questo. Cene. È vero, il malvagista ha paura. Il malvagista si sveglia la mattina e ha paura. Il malvagista è uno che si caga. Una vita di terrore, sì. Mentre noi veniamo già cagati, il malvagista si caga sotto. Esatto. Per questo noi diciamo sempre venire già cagati. Venite cacati, esatto. Cioè. Possiamo anche dire che il malvagista tende ad avere più che ad essere. Ma attacca per non essere attaccato anche. Hai capito? Attacca fingendo di aver paura di essere attaccato. Mentre sa benissimo che è molto difficile che venga attaccato, perché noi del malvagista non ce ne fotte una minchia. A meno che quella percentuale di cui parli, che è molto bassa, viene alzata dalla paranoia che viene inflitta al povero malvagista, quello subdolo, quello che viene malvagismizzato. Capito? Okay. Per esempio, facciamo un esempio. Le cavie malvagiste. Uno degli esempi più noti degli ultimi giorni sul malvagismo è: trovo un ladro in casa e gli sparo, lo ammazzo. Cioè, questa è. È proprio, cioè, questa è una proprio sorta di maleficio fatto dai malvagisti. Sì, come si chiama, il maleficio o il malvaficio? Il malvagificio. Il malvagificio. Malvagismificio. Malvagismificio. È un po' come dire raggomitolamelo. Ah, ok. Malvagismificio. Non passare io quello ubriaco. No. Comunque, ragazzi, raggomitolamelo. Comunque l'8 novembre arrivano dei malvagisti professionisti con l'abitamento carpiato, ve lo dico. Ma Buonanno se lo porterà il pezzo. Il personal. Ah, scusate, il ferro. Non capisco perché tutti quanti continuano stramaledettamente a chiamarmi Donatella. E naturalmente di fronte a dei brani così, questo pocherino di tre scivoli si ammutolisce e lo ascolta, no? Mentre invece adesso su niente di meno che Rasputin, io andrei avanti col concetto di malvagismo. Mi sembra che qualcuno voglia leggere. La poesia, alzati in piedi. Allora caro presentiamo. Direttore Mega Galattico. presentiamo. Presenta ci arriva, ci è arrivata questa poesiola. Esatto, Presidente. Esatto. Poesiola. Al numero poesiola. Alla casella di posta email ipersegreta dell'Internazionale Trash Ribelle, che nessuno sa, ci è arrivata questa poesia. Infatti, non sappiamo in realtà se fosse non un virus acchizzato. Delle spie pop oppure. E quindi l'abbiamo provato con un telefono di un altro. Col telefono di un altro l'abbiamo scaricato, abbiamo letto il contenuto, non ci sembrerebbe se è stata scritta col sangue, però hai capito? Perché dipende se poi è stata ridigitata oppure se la tastiera era sporca di sangue. Può essere, ma il telefono è rubato, boh. No, non so se mille motivi. La vuoi leggere tu, Integerrimo? La declamo. Vada. La declamo con il tono quello basso da declamatore. Declami. Un attimo, faccio un goccio della mia bevanda preferita. Giustamente. Tutto vivo lì. Il malvagista. Tiè. Il malvagista. La paura è grande amica, ne dispensa a piene mani. E terror sarà domani a dar corda a sti africani. Ora è bianco, ora è nero, purché il voto a lui sia vero. È Salvini il malvagista, che da troppo tempo è in pista. Lui divide e poi comanda, lui ti allena a diffidare. Lui ti esorta a non capire, lui li vuole a casa loro. È maestro di menzogna, li vorrebbe nella fogna, perché è pronto a ripulire con la ruspa e ripartire. Ma il malvagio non può nulla contro il ruspo della folla. Una folla che ben sa che di pirla come lui ne so già passati tanti e davvero ormai siamo stanchi, perché neri, rossi e gialli siamo tutti quanti umani. Occhio al ruspo che ti aspetta, lui già sa la via corretta e di te farà polpetta. O Salvini malvagista, non sperar nella conquista che Bologna è antirazzista. Ti è piaciuta? Direi che un po' naif, un po', come dire, sognatrice, ma di sicuro non è una poesia malvagista. No, sembrerebbe di no, anche in mezzo, da leggere in mezzo alle righe, sembrerebbe non malvagista. Esatto. L'autore non è un malvagista. L'autore pare che non sia un malvagista, le fonti lo danno per non malvagista. Infatti c'hai un attimo una pelle d'oca, ti sto vedendo. Però tu hai lontano di che. Io passerei con una nuova domanda di Gianni. Abbassa un po' la musica, Federico. Allora, abbiamo detto e siamo partiti da un concetto molto bello, che è quello della malva come pianta. Ma la natura, dove noi andremo a fare questi concerti, dentro a questi fabbricati e fuori, ha dell'altra natura. Diciamo che la trash è un po' al verde, mi sembra che sia così, più che essere malvagia, malvagista, è al verde. Il verde va dal bianco albino al nero moro e include tutti i colori. La musica deve essere distribuita a tutti quelli che hanno un qualsiasi colore. Diamola perché al verde. Qual è la domanda? La domanda è: riuscirà a cavarsi dai guai la trash ribelle? Mai. Cioè a levare, a prendere mai spazzoni, scope, palette e a levare tutto il brutto e fare trovare invece solo il pulito. Nessuno. Per una bella scoperta in Bologna? Risposta al presidente. Ricordiamo che, a parte che l'Internazionale Trash Ribelle è l'unico baluardo, ormai questo. Diciamo che nessuno ci potrà mai sconfiggere. Perché noi siamo i scemi. Noi siamo i scemi. Quelli, cioè, c'è la gente che ci dice: no, guarda i scemi, quelli scemi sono. Sì. Siamo i scemi. Siamo i scemi con la I. Una scemi con troppe I. Ma sicuramente non siamo malvagisti. No, no, infatti è questo, anche perché poi voglio dire, noi siamo sempre stati vicino a tutti quei ragazzi giovani che fanno università e che. Siamo il bancomat dei collettivi universitari di tutta Italia. Loro dissentono e noi paghiamo l'avvocato. Loro dissentono e noi paghiamo l'avvocato. Ma loro non sono d'accordo e noi paghiamo l'avvocato. Quell'altro, quindi perché non apriamo uno studio d'avvocati e facciamo prima? Vabbè, dovremmo avere qualcuno dei nostri che direttamente fa l'avvocato. Potremmo fare. Il presidente. Nessuno che ha studiato, siamo quattro caproni. I laureati non sono accettati nell'ITA. È vero. Non abbiamo un laureato. Il malvagista in buona parte è piuttosto acculturato. Sto parlando di quelli. Allora, il malvagista acculturato è quello che lavora molto nell'ombra, un po' da dietro. Quello che mi si dice spesso è, per esempio, l'8 novembre, ma che gli andate a fare pubblicità a quello lì, che non voglio neanche nominarlo. Ma che voi, ma Putipu. Poi gli date a Putipu, d'ora in poi lo chiameremo Putipu. Ma che a Putipu gli volete dare che poi si fa pubblicità, lui è proprio quello che vuole, lui è proprio vorrei spiegare che Putipu ha alle spalle, diciamo, un crogiuolo di malvagisti che tengono su significa avere contatti con la stampa, avere tutti i contatti con i media, riuscire a capire l'utilizzo moderno del social media malvagista, cioè che hanno capito tutto questo crogiuolo di malvagisti che gli tengono su tutta questa campagna malvagista, che non si fanno vedere, che non è, se lui non ci arriva, cioè lui non ci arriva a questo, lui è quello che è relativamente presentabile, perché quando anche per quando caso. Fa il cattivone è il malvagista per caso, quando fa il cattivone sembra che te lo sta dicendo con una sambuca in mano, sì. E quindi dici vabbè, ma soprattutto buon anno se lo porterà il ferro. Topolino, compito è l'uomo ragno, Malvito è l'ispettore, la 44 Magnu, legittima difesa, il colpo accidentale, sono storie ormai passate e rientra nel normale. Mamma mia, le 100 lire, adesso devi dargli, parto per l'America perché voglio armarmi con le armi. Tanto meno una cannetta, ma sei considerato se sai usare la beretta. La libertà è una statua con cura fu innalzata, tentando di nascondere. Secondo me ha ormai 20 anni questo pezzo. Però spinge ancora forte. I pancreas a noi dell'ITR ci piacciono. Il presidente, scusate, no, parente, mi devo staccare. Un po' ma sì, mi sembra che c'è la musica troppo alta. Ma perché poi, sei. Stiamo dicendo dei concetti importanti. È che se mi avvicino posso fare l'effetto così. Oh. Tutti possono fare un effetto molto sexy, tra l'altro. Buonasera, amici non malvagisti. Adesso il parente ci spiegherà un concetto non malvagista. Ci spiegherà ancora come il malvagismo viene applicato nella società contemporanea. Esatto. A te parente, prego, avvicinati di più al microfono. Allora, ci sono varie, anche i malvagisti sono divisi, ma non tanto fra di loro, nel senso che ci sono i malvagisti che vengono giù tipo l'8 novembre in massa con Putipu a capo, che va in giro a parlare, a dire cagate in giro per il mondo con le macchine coi vetri rotti. E certo, perché diciamolo, cioè, poi c'è pure quello che porta il malvagista, che è malvagista pure lui, però è stipendiato. Ci torneremo. Cioè, poi il diciamo il lavoratore, perché il malvagista crea però un indotto. Poi ci sono, c'è l'altra fazione dei malvagisti, che sono quelli che fanno finta di andare contro i malvagisti. Ah, certo. Ok? Che però dicono che chi contesta i malvagisti sono dei malvagisti pure loro. Sono dei malvagisti pure loro. Ma allora, fa questo? Crea confusione, crea un bordello. Quindi questo Noi diamo delle certezze. Noi siamo sempre stati dove stiamo, cioè non è che stiamo da un'altra parte. Dove stiamo? Andiamo là oppure ce ne andiamo da un'altra? Stiamo. Siamo buoni. L'importante è che usciamo. Stiamoci. Usciamo. Usciamo. No. Dovremmo, l'avevamo detto che uscivamo. No, comunque capì. E quindi questa gente qua pure fa parte, cioè pure sono malvagisti, ma sono malvagisti più high tech, capì? Mentre ci sono i malvagisti old school. Che vengono ancora il malvagista analogico. Adesso c'è il malvagista digitale. Esatto. È quello per hobby. Il malvagista per hobby anche. Capito, quello che lo fa giusto cazzo. Perché non c'è un cacchio. Scusa, scusa, dalla regia possiamo vedere un attimo l'ultimo post che ha messo Putipù sulla sua pagina e leggere alcuni dei commenti più beceri che si possono. Perché è così che si propaga il malvagismo. Soprattutto sui social network potrete vedere bene. Cioè, se ci andate solo un attimo e seguite. Purtroppo no, lasciate stare, non fatelo. Perché è proprio. Ci pensiamo noi per voi adesso. In questa carta siete sicuri? Io vi leggo l'ultimo post di 7 ore fa di Putipù. No, ma noi solo i commenti volevamo sentire. Ma no, il post però ha senso. Commenti, va bene. Perché non ci interessa il messaggio, se no siamo qui a parlare, cioè trasmettiamo 85.000 comunque. Mi piace rotti. 85.000 mi piace buttate lì e adesso 2.400 leggiamo. Condivisioni. Ecco, ma neanche tanto per il sono suo. Pienamente d'accordo. Io avrei fatto lo stesso. Chi non difende la propria prole? Meglio un signore vivo che un delinquente o delinquenti e tutto ciò che sia non italiano. Ruspa. Così. Sbagliato. Che bello, è meglio non sapere qual è l'inizio dei commenti, cioè che cosa stanno come tanto non serve. Va bene qualsiasi posto, va bene lì per lì, capito? Facciamo un applauso a Marino che se lo merita. Così se ne posso di Salvini questo era. L'ho detto. Sarebbe ora di mandare a lavorare la terra. Fustigatemi. Manda la pubblicità. Fustigatemi. In quel solito bistro ho firmato metro quadro di cambiare agli usurai. Dicevamo? Leggicene ancora qualcun altro, dai. Sarebbe ora di mandare a lavorare la terra questa politica che non si rende conto in che mondo si vive. Wow, questa è da profonda, da questa è profonda. Putipù zappatore, è da analisi. Bene. Ma in fin di conti sempre le stesse cose. Comunque, scusiamo. No, ma va bene. Scusiamo, cioè, ma io posso dire una cosa. L'8 novembre ci sarà Putipù il malvagista, ma ci saranno un sacco di malvagisti famosi, storici. A quanto pare sì. Cioè comunque il cast, a parte il che cast c'è si è riempito molto. C'è il malvagista lui. Cioè. Ma stanno facendo le prove, come, secondo voi? Ma dici, no, ma non so. Quello manca il soprannome. Ma dici che viene? Dici che viene. No, secondo me le hanno sparate un po' grosse anche chi? Loro. Chi? Lui, B. B? B. Che poi, per esempio, no, scusa, B è un malvagista. No, sicuro? Però è uno dei pionieri del nuovo malvagismo, quello sì. Però gli ultimi 20 anni, perché prima però, ce lo stanno facendo rimpiangere. Più di nicchia, più di nicchia. No, non è che ha spopolato proprio. Non è che no, l'ha reso però commerciale. Sì, però non era così becero, era più galante. Era un malvagismo galante. Era più venditore. Era mellifluo e carezzevole, se permettete, non è che però però lo stiamo rimpiangendo. No, è che non era così violento fondamentalmente, perché adesso siamo di fronte a un malvagismo proprio violento. Sì, sì, prima era tutto... C'è la distinzione tra infatti il malvagismo, quello galante, era a modo, ora abbiamo il malvagismo, quello irruente, e dire anche un malvagismo da Grande Fratello, ragazzi. Perché il click conta. Fa scena, fa share, fa odio. Comunque, raga, dove dire, esiste un'unica relazione. Non dimentichiamoci che Putipù si è trovato. Si è trovato dov'è? Semplicemente perché tutti gli altri li hanno arrestati. Sta lì anche per grazie a Carglass. Certo. Raga, questo andava a Leoncavallo. Si faceva le canne. E poi è andato. No, a parte che se le faceva è tutto un concetto un po', ma forse se le fa anche ancora. Ma non è importante. Il malvagista le droghe non le sente, secondo me. Si droga e non la sente. No, perché c'è stata la foto. Sai la foto in cui c'è Putipù poliziotto che abbraccia l'altro? Ciao, proprio senza. Ma di brutto, ma anche un po' così, sai quanto, asiatici. Ma sai, guarda che fare il malvagista H24 è un lavoraccio, eh. Ma dici che un fisico normale riesce? No, secondo me lui si piglia degli integratori. Ah, lui beve il latte della hai detto integratori, perché qua è un attimo che partono i quereloni. Secondo me è il latte della Valpolicana. Che il nostro studio d'avvocati comunque riuscirà a smontare con ovviamente un colpo gli di tacco. Non laureati, ce l'abbiamo solo noi. Comunque, in buona sostanza, domenica 8 novembre, esatto, andiamo un Santa po' Polenta. Arriveranno, potrebbero arrivare 50.000 malvagisti. No. Guarda, lui ha detto che sarà. Numeri, 200.000, lui ha detto. Lui ha detto 200.000, noi saremmo 1-2 milioni. Ci stiamo no, dentro. Un milione e mezzo. 1-2 milioni. Saremo 1.729. 3 per la questura, però saremo 1 milione. Saremo un milione, un grosso miglio. Sì. Anche se non sappiamo, non possiamo dirvi. No, non sappiamo, facciamo finta di non sapere, noi sappiamo tutto, possiamo dirvi. Noi allora dai, cominciamo a stringere un attimo sul programma del prossimo weekend, che sarà un programma assolutamente da trash ribelli to cool. Inside. Tanto il 6 novembre, raga, il 6 novembre. Ah, cominciamo dal. Si comincerà il. Siamo domani sera. Se no. Ah, innanzitutto aspetta, ci stanno intanto tutta una serie di. Ricordiamo domani cosa, di appunta... cosa chiude, cosa. No, un attimo, un attimo, perché questa è una cosa che devo dire da integerrimo. Scusate. Integerrimo dice che la parte, diciamo, più simpatica e gioviale di questa città sta preparando vari eventi. Da qui all'8 novembre, che noi condividiamo, come li condividiamo in tutte le feste in cui andiamo, quindi partecipate insomma a qualsiasi evento che possa in qualche maniera intralciare questa calata della barbarie pop padana malvagista. E comunque noi abbiamo i nostri appuntamenti internazionali trash ribelli in città, che cominciano città. E in tutta Italia, poi ho visto pure all'estero. Quante feste ci avevamo in Svizzera? C'era dalla Svizzera alla Sicilia, ragazzi. Alla Sicilia, sì. Perché il 31 ottobre, come sapete tutti, è una delle feste comandate del trash ribelle. Non ci possiamo siamo farvi anno dopo a suon di dancehall e di balere e di cocktail, cocktail. Scarzi. Scarzi. Io domani sto a casa, me ne fotto la festa del domani. Esatto. Beh, comunque questa festa il 6 però, novembre. Già a partire dal 6 novembre. Dai, vogliamo, dai, ricordiamo almeno l'appuntamento bolognese, visto che giusto per oggi siamo in etere bolognese. Ah, beh, ma vero, anche in streaming il in tutto 30, il mondo. Sono avanti una settimana, perdoni, mi sono già là io. Ma è lui. No, e c'ha una. Minchia, c'è un festone al TPO, porca madonna. Momento promotional. Eh sì, il malvagismo non passerà. Vabbè, dai, allora, questo appuntamento bolognese, domani TPO, di scena internazionale trash ribelle con Parente, Sebac, è il pollo loco. Si dice Sebac. Finalmente lo sappiamo. Sebac. Io dico Sebac. Io Sebac. Io lo faccio più da paese. Sebac. Paese vai Sebac. Paese che vai Sebac che trovi. Giusto. Vedi che li trovi, eh. Ah, te lo dico. Non, dai, non ci entri però. Dai, a Milano chi ci abbiamo, dai. Integerrimo a Milano. Ci abbiamo anche la Super Tour tre giorni napoletana di Paolo. Ah, è vero. Ci abbiamo Palermo, ci abbiamo. Se andate sulla pagina dell'Internazionale Trash Ribelle di Facebook troverete un bel post, perché tra l'altro l'Internazionale Trash Ribelle festeggia il 31 ottobre la fine di Expo. Esatto, e quindi la fine della nostra campagna No Expo, che è cominciata il 1° maggio con la bellissima festa che abbiamo fatto a Milano, piena di fuochi artificiali. Un sacco di gente, ci un sacco di gente, siamo che molto bello. Divertiti. Sì, sì, stavo bene. E quindi tutte le feste, diciamo, dell'Internazionale Trash Ribelle che potete trovare in giro per l'Italia saranno, chiuderanno la campagna No Expo dell'Internazionale Trash Ribelle. Un ringraziamento alla Nutria che ci è stata così vicino. Nutriare il pianeta, neanche la merda, è stato lo slogan finale. L'Expo finisce così in svendita su eBay. Io non ci sono. Sì, diciamo sì. Che l'Expo. Infatti già si vedono, che ne so, open space di 10.000 metri quadri a prezzi stracciati al metro quadro. Ricordiamo l'Expo, la fiera delle file. Esatto, l'albero della vita, che cazzo è l'albero? Pure arrivati, quello svendono, era 1,20 euro. Sono arrivati a 10 ore di coda per il Giappone quando con 11 ore. Ma tu ci credi? Ma comunque, tu ci credi che c'è gente che si mette in fila 10 ore, regà? È fake. Ma ah, tra l'altro non abbiamo parlato della fakeizzazione della comprensione del reale, anche questa è molto malvagista, eh. Cioè il malvagismo si insinua anche nel pensiero logico, quello proprio causa effetto, e quello è un problema, capito? Anche perché stavo facendo un discorso con un vecchio compagno, e questo vecchio compagno mi diceva: una volta le masse erano ignoranti, ma sapevano di essere ignoranti. Quindi quando vedevano qualcuno che cercava di dargli dell'ispirazione, dei contenuti, gli andavano appresso, no? E non malvagisti, dicono. No, non malvagisti. Comunque, cercavano di seguire perché sapevano che lo seguivano per una propria emancipazione anche personale. Adesso gran parte delle masse è gente che pensa di aver capito già tutto, perché hanno anche la laurea, però in realtà non riescono ad avere né pensiero critico né pensiero logico, perché non hanno avuto l'emancipazione in mezzo a tutto questo, perché non hanno avuto modo di approfondire nulla di quello che possono leggere, vedere. Però sono laureati e quindi non gli devi insegnare un cazzo, e quindi se uno mi viene a rubare dentro casa gli sparo in testa, come dice Buon Anno. E torniamo al 1700, ma Buon Anno se lo porta il ferro. No, comunque ritorniamo. Cioè, ma poi soprattutto il 6 novembre. Sì, va bene. 6 novembre, diciamolo, dicetelo voi. Lo diciamo. Continuiamo. Questo è Federico, una cosa il da 6 novembre. È una cosa da presidente. Ecco, però, siamo arrivati al 6 novembre. Il 6 novembre. Guarda, il 6 novembre c'è una festa, se non sbaglio, è un noto centro sociale di Bologna. Si capisce poco, eh? Biffi merda. No, cioè questa festa, diciamo, propedeutica, di preparazione. Un allenamento. È uno start. Le grandi prove. Warm up. Le grandi prove. Esatto. Prove generali. Prove generali. Abbiamo anche la sarta quel giorno. Fianco. Interessante. So, sì, la truccatrice, sì. Sì, però insomma venite mascherati, venite già cagati e venite, esatto, mascherati. In console ci saranno amici, selector da dovunque, nuove leve, vecchie glorie. Poi chiaramente. Poi facciamo i cartelli, con i famosi cartelli dell'Internazionale. Esatto. Ormai è tradizione. Io manderò idee. Ci sarà. Cioè, un sacco. Il malvagismo non passerà, è il È il tema principale della serata. Ricordiamo a tutti di tenere da questa cosa. Veniteci, numerosi. Siateci. Ricordiamo, venite già cagati. Tenete il vestito di domani. Esatto. Bravo, non me lo levate mai. Tutta state una settimana. Dal 31 all'8 rimanete con quel vestito. Vestiti, lanciamo questa campagna. Ah. Tutti che devono girare la prossima settimana vestiti. Per Bolo. Il primo che vedo vestito normale è un malvagista. Infatti, perché l'8 novembre. Spieghiamo un attimo quello che solo l'ITR vorrebbe riuscire a fare l'8 novembre. Esatto. L'8 novembre, semplicemente, l'ITR con il suo ruspo. Un suo ruspo arriverà in un punto della città. Esatto. Comincerà quello che riesce a fare, che fa sempre, una festa. Esatto. In maschera. In maschera. In maschera. Non fate che non vi sapete divertire. Perché non è maschera, è un malvagista. No, è uno che potrebbe essere tentato dal malvagista. Esatto. Potrebbe cadere nel tranello. Se viene, è un passepartout per. Perché, magari. Cioè, magari se diventi malvagista, magari un giorno ti compri anche la BMW. Certo. Non so, magari vai a sciare due settimane d'inverno. Sì. Capito? Madonna, cioè, no. Magari che ne so. Se vai a sciare d'estate, costa meno. In montagna si può. Non so, il malvagista comunque ha dei benefit. Magari ha il SUV. No, ma quello. Fai i soldi. Può essere che hai dei soldi. Beh, i soldi sono un po' malvagisti di loro. Eh sì, lo sterco del demonio. Che fondamentalmente è difficile averne tanti senza aver sfruttato qualcuno, insomma. Per forza. Molto difficile. Mi sembra abbastanza. Molto difficile. Sì. Per quanto un ricco possa essere onesto. E poi è una delle tentazioni più impegnative, perché. Cosa? Anche gente come noi, io conosco persone. Ma noi ci divertiamo di brutto. Che iniziano a fare i soldi e non li vedi più. Spariscono, cambiano completamente personalità. Ah no, belli, perché cambiano classe. Cioè, hanno dato la loro essenza al denaro. Cambiano classe. Essere bello essere ricchi, vero? Io sono ricchissimo, scusa, ma almeno non me ne vanto. Franco, sperpero il mio denaro in una maniera che va sperperata il denaro. Uno sperperamento consapevole. Cioè, un sperperamento consapevole di denaro, che tra l'altro non è neanche mio, quindi. Cioè. Sperperare il denaro non tuo. Ci sono le zie che si stanno rivoltando nella tomba in integerrimo, quando dici queste cose. No, ma che io parlavo delle mie conti svizzera. Scusa, secondo te come ci arriva l'internazionale? Ricordiamo la sede legale dell'internazionale. Tutta sta campagna. Da l'internazionale tra Ceribelli alla sede legale a Ginevra. Ma no, a Ginevra, che ne so, a periferia. Ginevra centro. C'è scritto proprio. Ginevra centro. Certo. Beh, d'altronde. Zentrum. Va bene, io a questo punto toglierei sto loop e mi sentirei sto pezzo. Dai. No, l'hai messo tra, metti in un altro, che c'entra. Metti un altro. C'è una canzone che si chiama Un altro. Bisognerebbe scriverla una canzone che si chiama Un altro. Ecco a voi. Un altro. Un altro strappon. Un altro strappon. Prendi un altro strappon. Parente. Io dirò Pataniello. Sai mixare dopo 19 anni ormai. Io. Ok ragazzi, microfoni aperti. Pietrificati. Allo? E io mi farei fare una domanda da Gianni. Allora, che cosa offriamo di buono per rappacificare gli animi prima del concerto, in un modo che si nutrano e nessuno ha più niente da dire perché si arrivano da lontano? Perché di solito noi riceviamo persone che arrivano un po' da tutte le parti. Sì. La loro bravura, la loro bellezza non l'abbiamo mai messa in discussione. No, piuttosto la console bisogna tenere calma, perché quando si lanciano in gruppo quello esplode. È malvagia. Ma al massimo, quella è malvagia. È malvagia. È il massimo a cui si sono offerti tutti i nostri clienti nei nostri spettacoli. Ci adorano. Malvagia. Quindi come facciamo? No, ma la malvagia. Malvagia, ma la vuoi secca o frizzante? Frizzante. Okay. Croccante. Croccante, la malvagia croccante. Sì, no, chiaramente durante l'atto assolutamente. Ma la malvagia anche. No. Anche, che ne so, Harry Potter apparteneva alla malvagia. Era un malvagismo. Che cazzo ne so? Merlin, Mago Merlino. Mago Merlino era un po' malvagista, era un Mago Merlino. Sì, era un po'. Perché mo tutti pensano al Mago Merlino della Disney, no? Mago Merlino era un po' malvagista. Sì, no, purissimo. Pure Morgana. Non si è salvato mai nessuno. No, no. Il malvagismo è stato ampio durante la storia. Cioè, è stata una. Assolutamente. Sono corsi e ricorsi, no? Anche perché è come dire, è palese, è lampante, la storia ce lo insegna. Quando il potere ti arriva addosso, o perché l'hai inseguito, o perché ti è capitato, è poi molto difficile rinunciarci. Oppure. Stava a dire una cosa seria? Sì, ci provavo. C'è il potere, il potere fa vizzire. Scusa, ma sei laureato tu? No. Non puoi dire le cose intelligenti. Terza media. Non puoi dire le cose intelligenti. Cioè, vuoi dire che cioè, il potere è malvagista. Il potere è malvagista. Cioè, vai di concetti più assolutamente più semplici, più a slogan, più buttati lì. Alina, grande intervento di Alina. Tra l'altro. Grazie Alina, sì, mi dà ragione. Meno male che c'è Alina. Meno male che c'è Alina. Comunque che... sì. Forse. E quindi i malvagisti ci sono pure. Ma vogliamo dare dei consigli al festaiolo Tresciarolo, ballerino danzereccio che verrà il 9, che l'8 novembre da noi, con la consapevolezza che Bologna sta subendo un'aggressione, ma c'è questa, diciamo, oasi di sorrisi, trash e non malvagisti che è pronto a raccoglierlo. Però, insomma, qualche precauzione bisogna averla, no? Ah sì, io faccio tutte le mattine, mi faccio una spremuta d'arancia che mi serve per il fabbisogno idrico, di idratazione e anche per la vitamina C. Comunque è un prodotto fresco, fa bene, fa bene. Okay. Io mi porto sempre un panino dietro perché a stomaco pieno riesco bene comunque ad affrontare le varie cose, anche a leggere quello che bevo. Certo. No, io faccio la cacca perché devi essere libero per combattere il malvagismo. Leggero. Leggero, capito? Venite già cagati. Assolutamente, ragazzi, vi vogliamo leggeri, Vogliamo aprire la parentesi Gianni Morandi? Già. Dai, facciamo. Allora, scusa. Cioè, la parente assolutamente tutto tuo. Allora. Questa è una richiesta ufficiale. Un appello accorato ufficiale da parte degli oltre delle, ma che dico, milioni, migliaia di selector dell'internazionale Trash Ribelle a Gianni Morandi. Gianni, abbiamo tutti quanti seguito con fervore la tua diatriba, come si dice il tuo diatriba. Con Putipù o il capo dei malvagisti che viene a Bologna. Bologna, Gianni, la tua città. Bologna, Gianni, ascolta la tua città. Sono di Monghidoro. Ti risponde, no, sono di Monghidoro. Sì, sono di Monghidoro, però viene a Bologna, hai capito? Già. E quale occasione migliore? Quale piattaforma migliore? Quale tutti, cioè, dove avrai tantissime persone che ti acclameranno. Gianni, vieni nel posto dove staremo noi domenica che non mattina, possiamo dirti, che non possiamo dirti, però vieni mascherato, mascherato, ecco, vieni mascherato, vieni, vieni mascherato da Adriano Celentano, da Riccardo, bravo Gianni, vieni mascherato da Adriano Celentano, ma la riconoscono, cioè, dalle mani, no, no, dalle mani, minchia, Gianni sarebbe un regalo, ne pensa, dal cestino della merenda. Dai, cioè Gianni, Gianni, per piacere, Gianni, Gianni, Gianni Morandi, è gradita la presenza di Gianni Morandi. Io direi che possiamo anche dire il titolo di questa, di questo gran ballo in maschera. Cominciamo a fare le cose fatte per bene? No, no. Cioè, Internazionale Trash Ribelle presenta Aurelio Riparti, gran ballo in maschera contro la viscida provocazione della barbarie pop padana. Il malvagismo non passerà. 8 novembre, Bologna, non si sa ancora bene dove, fra un orario tra le 10 e le 12, venite mascherati, venite già cagati, Cars Glass ripara, il nostro sponsor. È gradita la presenza di Gianni Morandi. E ospite d'eccezione ci sarà il Ruspo. Il Ruspo, assolutamente. Esatto. Ma perché? Ma perché si chiama Aurelio Riparti? Per andare a celebrare un personaggio che ci ha fatto fare comunque un sacco di chiacchiere, di risate per, diciamo, per il suo, le sue reazioni scomposte di fronte al nulla. E anche perché Putipù lo ha reso celebre con una sua, con una sorta di richiamo d'aiuto. La maschera bianca. Aurelio! Putipù, Aurelio! Tipo la Maria De Filippi che ha fatto celebre Aurelio. Cioè, Aurelio! Aurelio! Per me, Aurelio, per me. Io, secondo me si è un po' cagato addosso. No, Putipù. No, ma sì. Era tutta scena. Era tutto finito. Sì, no, no, un po' sì, ma più che altro magari pensava che c'era più gente. Lui ha avuto paura che ci scappava il ferito grave che gli passava sopra. Aveva già visto i voti. Ma cosa? Lui aveva... Se ammazzava qualcuno prendeva pure più share quello. Allora, il primo omicidio che fa vince le elezioni in Europa, transnazionale, cioè il presidente del mondo, un bagno di sangue questo uscito. Cioè, rendetevi conto, ma sì, soprattutto buon anno se lo porterà il ferro, dai, buon anno. No, lì perché se mi tira fuori il ferro in Piazza Maggiore è un grande. È scarica. Dai, è scarica. Allora cazzo, mamma. Scarica. Qualcosa di duro. Quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile. L'uomo con la pistola. Un po' malvagista questa. Beh, però anche molto profonda. Anche molto profonda. Questa non è malvagista. No, perché dici così? Madonna, dai. Cioè, come sei estremo. Per dire una cazzata, no? Dai, sei un po' ortodosso. Orcodosso. Orcodosso. Un porco addosso. Sei un porco addosso. No, comunque... Non perdiamo ritmo, dai, non perdiamo ritmo. Quindi l'8 novembre ci starà un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Tagliamo no, probabilmente un po' di parte. O venerdì sera durante il malvagismo, la parola malvagismo, il malvagismo, blocchiamo, il malvagismo non passerà. Vediamo, ecco, la festa. Oppure in un altro momento annunceremo dove saremo. Esatto. E voi avrete 22 minuti per raggiungerci. Anche perché se dici che lo dici durante la serata, cioè ti arriva tutta la redazione, le pop, la redazione del Carlino, no, arriva tutta la fuga di notizie è lì, è dietro l'angolo, cioè, quindi non ci possiamo permettere di dare, cioè, vogliono sapere tutti che fa l'ITR, che fa l'ITR, che fa l'ITR, noi non ve lo diciamo, l'ITR fa la festa, quello che fa sempre, gran ballo in mare, quello sappiamo fare, quello facciamo. Non è che dobbiamo fare chissà che, se volete sapete dove stare, non lo sapete perché non ve lo diciamo. Ma lo sapere, ma tanto Bologna è piccola, ragazzi. Bologna mormora, Bologna niente. Lo sa, in 20 minuti siete dappertutto, il tempo di sanno i cellulari, chiedetela di Digos, lo sanno, sì. Se volete sapere, state svegliati. Ma questi già lo sanno. Sì, secondo me loro lo sanno. Secondo me la fuga di notizie non c'è ancora stata. No, però loro lo sanno. Dici? Sì. Cioè, la società delle loro sanno quello che noi non sappiamo. Esatto, capi? Loro vedono. I tarocchi. Vedono. Come sta il Digo? Si ha detto ad ascoltare radio. Presente quello che scrive. Sta quello con la palla. Cioè, secondo noi quello sarà la nostra data. Possono dire queste cose a Radio Città Fucico? Ma direi di sì. Sono le mie. Direi di sì. Ma stiamo dicendo niente di male. Invitiamo anche Marino, travestito da cavalluccio. Oh mio Dio. Mi posso alzare? Sì. Posso andare? Sì, direi che possiamo chiederla qua. No? Alina, non ci guardare perché. Alina. Ma possiamo dire anche che uno strappon ci ha detto. Assolutamente. Questo strappon famoso, quale ha incontrato un amico, il quale ha trovato il cugino De Frascati, ha detto che l'8 novembre a Bologna non prendete la metro. Sono queste cose, queste lo sapete che Vox Populi. È così che sa. E quindi. È che salza la tensione, sì, ci sarà un apparato difensivo di quelli proprio. Mamma mia. Messi lì e non si sa bene perché, organizzato. Andiamo male. Tutti a rubare a Modena, sarà un poliziotto. Cioè, ci sarà una transumanza di ladri in altre città. Sì. Ma quello è. Che dire? Comunque sì, aspettiamoci dell'attenzione, perché c'è molta gente che è molto è molto meno ben disposta verso di noi. È una tensione da 2,20. Sì, non una roba bella, cioè una 2,20, capito? Una che ti tiene su un impianto, cioè una roba bella. Sì, almeno. No, comunque sì, la tensione c'è, diciamolo, e si taglia col coltello, l'abbiamo detto. Ecco, noi non siamo abituati ad essere in tensione, e nemmeno a essere tagliati col coltello. Non ci piace. Quindi non ci rendiamo bene conto, forse. No, anzi. Noi ci rendiamo bene conto, ma siccome altro, siamo gli scemi. Noi non solo, ma con questo bagaglio di ingiustificata felicità e inopinabile leggerezza d'essere. Esatto, noi sconfiggeremo i malvagisti con l'ignoranza trash. Con l'ignoranza si combatte a botte di ignoranza consapevole. Fake, che hai detto? Consapevole. Fake. Parla with pure fake. Un'altra lingua, digli, questo c'è il dottorato. Fake, raga, una cosa. Questo è un concetto proprio post contemporaneo. Sì, come dire che il peggior PD del PD è il PD. Sì. Eh? Ci sta, eh? Sì, si può dire a Radio Città Fucico peggio. Credo di sì. Il PD, peggio PD. Da 19 anni. Una volta solo sono stato censurato in questa radio. Perché stavo mandando un Magnotta. Avete presente Magnotta? Ecco, mi hanno telefonato dicendo. Ma come? Comunisti, radio, non abbiamo, Dio, sì, cioè. Non abbiamo bestemmiato noi fino adesso, vero? Ma io. Adesso, no, dico adesso. È passata, oggi. Guarda, allora, sì, ne ho detta una poco fa. Ah, l'hai detta? Sì, cioè, nonostante la Madonna non abbia una struttura alare al volo, stasera ne è volata una comunque, scusate. Le salutiamo tutte. Vabbè, dai. Le salutiamo tutte comunque. Succede, cioè, adesso arriva il nuovo arcivescovo, Zeppi. Sì. Zuppi. Sono stata alla cresima Zippi. E in via Venezia c'era il nuovo arcivescovo col suo cromato. Bastone. magico. Tre vie che venivano da una vigna antica. Secondo te era malvagio? Ganda. Eravamo talmente in tanti. Era malvagista? Sì, mancava l'ossigeno. Voglio il bastone. Mancava l'ossigeno. Vedi, i malvagisti vi fanno mancare l'ossigeno. Manca il bastone magico dell'arcivescovo. Io ho una mazza da golf tutti. Magica. Tu? Sì. La porto, l'8 novembre la porto. Io ho una noce a tre spigoli. Che cazzo? È un portafoglio. È una roba rara, immagino. Insomma, la foce della. Portafoglio. Ce l'hai la foce della Trash Ribelle. Quando incontra il mare. La foce della Trash Ribelle incontrerà il mare probabilmente alla fine del nuovo piano quinquennale. Perché intanto ha scavato un suo bel solco. Non lo so, il piano quinquennale è andato allora, già a buon fine. Abbiamo finito un quinquennio. Esatto. E questo è finito un quinquennio. Un lustro. Il primo quinquennio. Un lustro. Tra il lustro e il brusco me ne vado per il bosco. Esatto. Il secondo quinquennio sarà un po' più pressante. Esatto. Allora farà sentire la sua acqua fresca. Ma noi di quello ci beviamo. In un mare di tranquillità entrerà serenamente in mezzo a quello che è già tutto il mondo della musica, delle parole, dei film. Perché ormai siamo vecchi nel mestiere. Ormai sappiamo attirare verso di noi qualsiasi tipo di struttura abbia a che dire con la vita degli uomini. Intanto. Parola al presidente. Vorrei lasciare un attimo. Scusa, sono emozionato. Cioè, veramente. Sì. Lo so, bisogna tenersi fermo il cuore per l'affetto. Mica pizza e fiche. No, ma sul serio. Cioè, ma sei sicuro che noi possiamo stare qua? No, secondo me. Sì, anche io obiettivo. È stata spazzata e spazzonata. Se ne occupano, c'è la polizia. Questa qua è veramente una sede di una grande radio, non è uno scherzo. Da qui partono notizie che invadono il mondo e abbiamo detto che diremo sempre vere. Noi ci battiamo per la verità assoluta. Cioè, esatto. Se fossero due cuccioli, quelli della lupa e l'artista l'ha avuto fare due gemelli, noi non ci crediamo. Assolutamente. È un falso storico. Non crediamo a quando quello che ci Cesare, fanno i figli alla credere. Pensando di non crederci. A chi la date a beverla? Noi facciamo contente soprattutto le buon anno. Ma soprattutto buon anno se lo porta il ferro. Ma tutti se lo stanno domandando, capito? Hai capito? Lui è un malvagista professionista di brutto. Armato. Bravo, armato. Malvagista professionista è armato. Carpiato. È snodabile. Sì. Io direi. Pieghevole, forse. A metano. Mettiamo un pezzo. Totanato. Metti il pezzo di buon anno. Madonna, un altro pezzo. Dopo un altro facciamo anche il pezzo di buon anno. Mi ricordo che anni fa di sfuggita dentro un bar ho sentito un jukebox che suonava e nei sogni di bambino la chitarra era una spada e chi non ci credeva era un pirata e la voglia di cantare e la voglia di volare forse mi è venuta proprio allora forse è stata una pazzia però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Nella mia categoria tutta gente poco seria di cui non ci si può fidare. che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, va da loro e non ti preoccupare. Sono a tua disposizione e sempre senza esitazione loro ti risponderanno. Io di risposte non ne ho, io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene, io più di tanto non posso fare. Gli impressari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale. Pezzone questo, mamma mia, diciamo che Bennato ha fatto il suo, sì. Possiamo dire che Bennato non è un malvagista? Assolutamente possiamo dire. Bene, se vuole, lo vogliamo invitare e invitiamo anche Bennato, dai, un diretto magari. Salutiamo Bennato. Ciao Bennato. Bennato, Ben Miller, Ben Stiller. Ciao, ciao. Diciamo che tutti i non malvagisti possono venire. Sì. Noi li inviteremo anche però, uno per uno, però, ma sono tanti. Però cioè, i malvagisti inconsapevoli si pongano dei dubbi prima di venire. No, vabbè, ma no. Cioè, il malvagista inconsapevole, cioè se sei malvagista andai da Putipù, se non sei malvagista niente, no? Così. Ma sì, certo, siamo l'antitesi. L'antitesi. Ci poniamo agli antipodi. Ci poniamo agli antipodi. Ci poniamo agli antipodi. Sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette. Mettetevi un paio di scarpe comode, vestitevi in modo da poter incontrare gli altri corpi, perché saremo in tanti e incontrarsi è veramente bello. Eh sì. Quando noi creiamo incontri incontriamo solo la bellezza, perché guai non ce n'è uno da scartare. Esatto, in effetti saremo tanti, tanti. 1-2 milioni. Poi si creano i fidanzamenti, come abbiamo già fatto e abbiamo saputo, nascono i figli e continuano a venire alla radio. Le nostre amiche e i nostri amici continuano a servirsi di questo meraviglioso pensiero dell'amore sociale. Ma ricordiamo che la trash unisce. Unisce assolutamente. Il malvagismo divide. Dai, spariamo dei slogan, dai. Dei slogan. Dai. Chi c'è, chi non c'è, non trash. Pum, sono due cuccioli, non ci ascolta nessuno. Stasera va male tutto. Siamo pieni di audience. Sì, abbiamo lo share. Io ho l'audience 4. Abbiamo lo share. Metti share, ce l'hai share. Share. Metti share. Ah, un altro problema del malvagismo è che fa share. Cioè, come fanno share un po' i film horror, no? Quel senso del brivido, della. Del no, sono una cosa un po' così. Come fanno share i cinepanettoni. Ah, si nutre tutte e due le cose, quello è il binomio incredibile del malvagismo. Ma il selfie dei selfie? I selfie. Sarà pieno di selfie. Sarà pieno di selfie. Anzi. Chi verrà sorpreso con l'asta da selfie verrà mandato dai malvagisti. Io attuerei anche il parental control, in modo che vengano levato, ci sia solo per adulti. Sì, cioè, noi ci teniamo a fare anche una festa per bambini, assolutamente. Io c'ho il mio controllo. Ma non dipende da noi. Ma siamo già alla Rai con la ragazza che faceva i palloni. Cioè, noi facciamo una festa dei bambini, però poi abbiamo le. No, che abbiamo le spie pop lì col fiato sul collo, che poi quelli fanno brutto, quindi magari. No, è chiaro che siamo child friendly. Avremo un sacco di share comunque. Assolutamente. Speriamo di farne sicuramente. Ci abbiamo l'infiltrato. Ci abbiamo, hai capito? Capito, siamo talmente preparati da farvi ballare per qualche ora in un modo veramente qualche è un concetto, qualche urina, qualche oretta. Vi daremo modo anche di farvi le fotografie. Prova, se avete tempo per tutto. Sor Bracciola, da qui ci vedo che ballate, si lascerà tutti toccare. Share, mascherati, antimalvagisti. Dai. Oh, io sono bello, inviterei quelli del Relais Hotel. Invitiamoli. Invitiamo il ristorante, il parco. Io li invito. L'hotel Relais, l'hotel Relais mi sta già simpatico. Ragazzi, ma buon anno. Il ferro. Se lo porterà? Non si capisce. Hai capito, Sharon? Che viva ancora. Lotta insieme a noi. Sì, sì. Invitiamo Sharon, però. Invitiamo Sharon. Ma viene in inglese. Viene. Secondo me viene. Sharon, you are welcome. No, come si dice? Vieni. Quando i piedi vengono. Ma Sharon è italiano. Sharon. Vedi che forse era italiana. Ma che è italiano, Sharon? Di Gallipoli. Di Gozzi. No, in serio? Giulietta e di Soleto. Ma veramente. Ma veramente. Di Rami di Ravarino. La salutiamo perché anche lei ha avuto un ruolo male nel mondo. Non male. Share con questa canzone anche. Ti stai sbagliando, il microfono non è quello, quella è una lampada. Stavo parlando della lampada per far luce sull'accaduto. Ah, incredible. Parla al microfono per fare. Vabbè, ricordiamo allora: allenamento, serata XM 6 novembre. Il malvagismo non passerà. Preparazione: il malvagismo non passerà. Siamo tutti lì. Venite numerosi. Poi sabato ci si ripiglia. Perché domenica mattina. Esatto. Dopo la messa? Dopo la venite. Messa. Dopo. Noi facciamo. Perché... Venite comunicati. Venite comunicati. Dopo la messa in culo, venite. Venite. Noi andiamo a mettere a fare i DJ set nelle messe l'anno prossimo. Sì, infatti. Bello, sì, però. Una bella messa me la farete. Ma sì, per non saperne leggere né scrivere, tanto esatto. C'è caldo, sta seduto. Non è una cosa da matti. No, poi le chiese sono belle, cioè comunque è una bella vibra. Volessero fare i matti qualcos'altro. Questa è una cosa giustissima che un DJ una volta. Dove andiamo? Dove andiamo? Scegliamoci una bella chiesa. A San Petro, cioè andiamo in piazza, quella in piazza. Alla cattedrale. Andiamo alla messa delle 8 a San Petronio. Alle 7:30 ci sta. Ecco, ci portiamo. Allora, svelato, hai svelato l'appuntamento. No. Si viene con noi. E non volevo. 7:30 abbiamo fatto così. Certo, tanto sarebbe stato tutti mascherati da suore. Alla messa delle 8 a San Petronio era una bomba. Uscivamo proprio tipo cavallo di Troia. Sì, certo. E spendevamo 80.000 euro a testa d'avvocato, credo. No, di offerte. Ma ti immagini che esci con la Madonna sulle spalle? Hai capito? No. Però stavamo dicendo che siamo al verde. Perché non ci abbiamo pensato prima? Oh, porca miseria. No. Infatti sì, appuntamenti dei danni, no. Stavo un milione di travestimenti da suora. Era fatta. Però sì, potrebbe avere appuntamento alle 7:30 a San Petro. Ti possono impedire di andare a... Cioè, anziché cercare l'after, venite. Anziché cercare l'after, venite a San Petro. Perché l'after è a San Petro. Esatto. Esatto. Domenica mattina alle 7:30 alla messa delle 7:30 all'interno della cattedrale. Cattedrale. No, non è cattedrale. No, cattedrale sta no. Comunque quelli da tu sai. È basilica. Nella basilica di San Petronio alle 7:30 l'8 novembre appuntamento Trash Ribelle. Vestitevi seri, nel senso. Diciamolo più volte. In maschera. L'8 novembre, appuntamento per Aurelio Riparti alle 7:30 dentro San Petronio, alla messa delle 7:30. Ci vediamo in fondo alla basilica durante il segno della pace. Esatto. Terza navata. Perfetto. Terza navata a destra, quello è il cammino. Esatto, lì. A sinistra prendono le offerte. Noi andiamo a destra. Mi raccomando, vestiti, cioè travestiti in maschera, come forza, volete, per forza, obbligatorio, travestisati, non travisati, mascherati, non travisatevi, travestisatevi come preferite. Ma la comunione ce la possiamo fare voi? Ah, io me la bene faccio. Se hai fatto, che se hai bevuto il cappuccino prima o no. Ma ti arrestano se fai la comunione? No, non puoi. Bruci. Che succede? Bruci. Ti fanno una muta. Bruci male. Una roba brutta. Cioè, se vado lì e intanto sto lì bestemmiando e mi prendo l'ostia, che succede? No, ma tu vai, cioè, là. Ma è un brutto gesto? È un po' malvagista. Come scrivere in maiuscolo su internet. È come se... Però non lo sa nessuno in quel momento che io non sono devoto. Ma mica devi fare, devi c'è la transustazione lì, la transustazione non ci va bene. Tu vai là, dove si mettono, dove stanno quelli che ha la chitarra? Cioè, è una fila medievale. Dove stanno quelli che ha la chitarra che suona? Fai, scusa un attimo, giovane, cioè, cortesia, guarda, fai fare ai grandi. Ti metti là, monti l'impiantino e metto la rettore. Dopo 10 minuti, un quarto d'ora di gente che un attimo non capisce, vai sopra là al centro dove sta quel bel tavolo di marmo, gli fai un bel buco, ci monti una bella spina per la birra. E abbiamo fatto la festa. Sai quando la birra va in questo paese? C'è il vino però. Anche. È poco. Anche. Ogni anno si rinnova la riproduzione perché viene finito tutto l'anno. Quindi ma non ci stanno i bagni nelle chiese per cacare? Certo che ci sono. Aperte al pubblico? Assolutamente sì, basta chiedere. Cioè, perché stanno inguattati un po' nella zona prete? Nella zona uffici, perché uno si svolge il ruolo come noi. I famosi uffici come noi, sì, della religione. Se uno durante l'omelia gli, cioè, viene dove da si balla, cacare, attento, ha che se accesso a un bagno. Certo. Non mi è mai capitato. Vabbè, che strano. Attento se capiti nella sacrestia. Attenzione. Anche i preti cagano. Ed è un po' a fianco a dove i papà o le mamme hanno dei bambini nelle carrozzine, perché altrimenti si metterebbero a piangere durante il rito, provocando malvagia. Malvagismo. Lo sa una cosa molto malvagica. Malvagica. Malvagica. Comunque, se state, mi sono dovuto preparare per una festa, praticamente nella sagrestia di una chiesa, accanto alla chiesa, proprio dove si... È una cosa bellissima. Il prego. Strano, le sagrestie sono anche belle. Strano, eh? Sagrestia, portami via. Ero intriso di... incenso. Di blasfemia. Vabbè, la festa l'abbiamo fatta nella chiesa. Era una parrocchiale. Ma perché volte. C'è è qualche anno che Dio ci fa le avance, ma noi non ci diamo da perché. piccoli col battesimo, poi la cresima ci chiama. Forse un giorno vedremo la luce. Sì. Cioè io l'ho vista già 2 o 3 volte. Vedremo la luce. Però sei spinta subito. Non era lui. Vedremo la luce, dai. Ho visto la luce 2 o 3 volte, però sei spinta. Era alogena. Si arriva a dirmes. È una cosa pazzesca parlare a tante persone, raccontare la storia. Ma potremmo aprire le file del trecento a un prete. Sì. Certo. Sai che trecciata avere il DJ di prete, trecere. Come si chiama la musica che... Un fraticello. Sì. Certo, di quelli che fanno gli amari di erbe, fattone, così un briacone. Facciamo se lo mettiamo là. Un appello comune qua a un prete hippie. Stiamo cercando un frate, un prete elfico. Di quelli proprio vestiti col saio marrone, esatto. Sandali, un monaco, la barba. No, quello è il frate, quello con i sandali. Fraticello. Ci serve un fratello DJ che viene a fare le feste trash con noi. Grazie. E che abbia dei tappi alle orecchie. Grazie. Un praticello ragazza. E la mentalità molto aperta. Fra praticello, sarebbe meglio se chiamasse. Esatto. Sì. Ok. Perché no? Ma ragazzi, io come dire, ma sì, in realtà sì, perché allungando i tempi radiofonici sono stati ampiamente sforati. Basta, dai. Direi che anche l'ultimo degli ascoltatori ormai ha cambiato canale, ha detto vabbè, mi ascolto Radio Maria. Secondo me qualcuno è rimasto. Sì. Quei 20-25 mila mi sono Sì. Siamo andati un po' più avanti di quest'ora. Diciamo che a Forlì ci sta ascoltando l'83% della popolazione, secondo i nostri dati. Sì? Che pare. Salutiamo i nostri amici in Svizzera. Colonna controcultura. Anticultura. DJ Zoccolo. Chiudiamo in una maniera molto convenzionale, quindi ricordiamo gli appuntamenti bolognesi, quindi domani al TPO, grande festa Trash Ribelli di Halloween. Già, il solito delirio come tutti gli anni. Accorrete. Mi trovate a Milano. A Milano insieme a Pataniello al cantiere. Poi abbiamo il 6 novembre. Il 6 novembre abbiamo Il Malvagismo Non Passerà all'XM24 dalle 10-11 in poi, ma tanto voi venite sempre a mezzanotte e mezzaluna, luna e mezza, maledetta. Vi invitiamo ad arrivare a prima. Farete prima. Cazzo fanno prima, secondo te? Serata propedetica, l'Aurelio riparti, cominceremo ad acchittare i cartelli, il fare cane, le scenografie, il ruspo. Andare a fare benzina. Tra il ruspo e il brusco. Tra Lucio e il Brusco, noi faremo i cartelli. Lambrusco. Domenica, ma quando arrivano sono per noi. 8 novembre alle 7 e mezza. Poi il 7 sabato noi facciamo Hangover, relax. Ci stanno un sacco di cose in città, ma noi ci rilassiamo un attimo. Dobbiamo anche smaltire probabilmente quello del 6. Tutta l'acqua che ci beviamo. E l'8, finalmente 8 novembre. Tac. Keen After, chi è appena sveglio. Alle 7:30 a una certa arriverà tutti quelli che aspettano da giorni e giorni. Arriverà il messaggio. L'appuntamento ufficiale che è alle 7:30 internazionale Trash Ribelle. Chissà dove, chissà come, chissà quando. San Petronio. Ad oggi San Petronio ore 7:30. Ad oggi. E anche quindi per tutto sabato appuntamento è questo. Ricordiamo di tenere il vestito di domani sera, sarà un ballo in maschera, mi raccomando. Esatto. Mi raccomando. Tra l'allero. Vestitevi. Mi raccomando, se per caso venendo all'Aurelio Riparti incontrate vittimisti, giornalisti a chiappa click, tossici dello share che vi chiedono qualche cosa, eccetera, voi dovete sempre rispondere: minchia le banche, zio, se non le bruci sei un coglione. Ecco. Minchia italiana, anche figa. Appena qualsiasi forse cosa vi chiedono. Sono due cuccioli. Minchia il bordello. Che poi è un sunto dell'ultimo libro di Chomsky. Esatto, in effetti sì. In poche parole. In slang. Chiave, poche parole chiave. Il dono della sintesi, il popolo ha sempre avuto il dono della sintesi. Sì, tipo entri dentro casa ti sparo, è quello il problema della sintesi del popolo. E che fai? Chiudiamo. Direi che possiamo onorevolmente chiudere. Smetto quando voglio. Tutto ciò, una cosa, ma buon anno. Se lo porta sto cazzo di ferro. Intanto salutiamo il parente che ha avuto. Aspetta, lo salutiamo dopo. Un secondo solo. Gianni, mi rivolgo a te, Gianni. Mi raccomando, Gianni, non mi deludere. Sai quanto ci tengo? Gianni, ti aspettiamo. Gianni, non potrai mancare. Gianni Morandi, Gianni, non potrai mancare. Dai, non ci veniva da Monchi d'Oro 2661, sei arrivati. Non eri mascherato. Sono anch'io. Dai, Gianni, non ci deludere, Gianni. Facciamo un sacco di io ci sarò. La merenda te la portiamo noi. Facciamo Aurelio Riparti Super Saiyan. No, veramente. Capi che facciamo, Gianni? Veramente andiamo a San Petronio alle 7:30 del mattino, Gianni. Dai Gianni, contiamo su di te. Mi sono seguiti i canali di educazione anche. Bene, Sor Bracciola l'integerrimo, Sebac il presidente e il parente il profeta dell'internazionale Trash Ribelle sono stati ospiti a Smetto Quando Voglio, hanno espresso, estrapolato, appropinquato, propinato. Dovreste essere molto più saggi ora. Sono bravi, ce l'hanno voluta raccontare un sono po' delle lenze. Sono delle lenze. Sì, ha rimescolato parecchio. Ti ha detto che sei una lenza, presidente. Chissà cosa hanno pronto. Gli zuccherini. Bravo, ma noi siamo i scemi. I scemi. Da niente, si arriva in acido, così si entra in tre. Esatto, si può dire in acido in radio? Sì, pure in basico. Ok, in basico. puoi dire quello che vuoi. Perfetto. Sì, qualunque cosa. Bene, con questo messaggio incoraggiante di mancanza totale di censura che noi auspichiamo da sempre, dichiaro chiusa questa puntata. Un ultimo anche saluto all'Alex. Quando? Po possiamo fare. Voglio, ah, certo. Oh, scusa, ciao. Ma mai più a 300 anni. A 300 anni, dai. Ciao, Nutria. E a quel punto ormai anche con te, forse ammetterlo tu non vuoi, e sono certo che nei panni miei.